1, 2, 3, prova, prova, 1, 2, 3, prova radio, ce ne sono 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova radio, 1, 2, 3, prova radio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Nulla. Non ti senti il radio. Mi prendi il capire della capsula. Niente. Guarda, adesso mi senti? Adesso sì. La radio è forte. Sì, la radio è buona. Qua così a metà. Metti la manetta. La manetta è così, guarda, 1, 2, 3. Ecco, adesso sei tu, è la ora. Ehi, aspetta che lo chiudo, va. Hai visto? Quella capsula che ti ho dato io l'hai messo. Ehi, ma vedi che è perfetta adesso. Non c'è più scarica né nulla. Guarda, adesso è chiuso. Ecco, vai benissimo, sei perfetto. Ehi, la ora. Questa sì che va bene la capsula. Quell'altra dava scariche, boh. Cosa può essere quando la scarica la capsula? Che errore. Senz'altro sì. Comunque, ricordo di sempre, ci vuole quella di colore verde, non quella di colore marrone. Sono gli unici che vanno bene. E questa solo c'ho di colore verde, quella che mi hai dato tu. È perfetta, visto? Dio grazie. Ti ha giurito. C'era una capsula tipo quella però di colore marrone. A scariche andava. Quello non si vuole niente, non ti preoccupare. Vogliono, quelle verde ci vogliono, dove? Aspetta un attimo, che mi hanno suonato. Io. Qualcuno qua. Hola, c'è qualcuno qua, si tu dici. C'è qualcuno qua. Avanti, chi è? Uno, due, tre, prova. Uno, due, tre, prova, canale 10. Io prova, prova. Luca? Prova! Vieni dove sto uscendo, sto facendo delle prove. Sì, già stai uscendo. Ciao, ascolta, sto provando da dopo giorni, sto terminando questa radio. Volevo sapere, vabbè, devo regolare, come ti sembra la modulazione? Bassa, alta, sta strappando, devo regolare il mic gain. Diciamo che non è limpida come modulazione. Un pochino di strappo c'è. Provo a abbassare per il mic gain, vediamo un po' se migliora. Allora, guarda, al momento ho tolto il processore. La prima cosa, togliamo il processore. Come ti sembra? Così va bene, Fabri. Così va benissimo. Allora, la voglio regolare in una maniera, però devo fare delle prove. La posso aumentare o diminuire, secondo te? Ma così è già abbastanza forte. Se poi vuoi provare ad aumentare, vediamo un po' se distorce. Allora, adesso l'ho aumentata leggermente, come ti sembra? È sempre bella chiara, pulita. Quindi allora 4. Ascolta, adesso io provo ad attaccare il processore che lo devo... Non voglio fare una regolazione, dimmi col processore come lo senti. Va bene, provo, scegliere, dai. Allora, così sono col processore, mi metto che non è molto chiara, giusto? Aumenta di smodulazione, però strappa, non è chiara. Allora, aspetta, se io invece abbasso il mic gain così, come ti sembra? Adesso ho migliorato leggermente, ma di poco però, quasi niente. Allora, così ho abbassato parecchio il mic gain, che cosa succede? Niente? Così ha migliorato moltissimo, così va bene. Però non è proprio perfetta. Allora, guarda, adesso io provo un attimino a fare delle prove. Allora, dovrebbe, siamo qua, guarda. Adesso ti faccio, allora dimmi, innanzitutto lo teniamo così un attimino. Adesso memorizza questa modulazione. Così, così è buona, così è buona, buona. Così ti piace? Sì, così è bella, così va bene. No, ascolta, se io per esempio da questo passaggio qua, guarda, 1, 2, 3, adesso ti faccio un parallelo, adesso guarda, adesso sono 1, 2, 3, 4, adesso faccio l'altro passaggio, 1, 2, 3, 4, è cambiato qualcosa? No, niente, assolutamente niente, la radio è chiara, è molto spinta, si sente che c'è molta spinta, va bene così. Allora, diciamo che in questa maniera qua, col Mickey Gain A2, il processore, adesso disinserito il processore, adesso sono col processore disinserito, il processore che volevo fare un controllo, guarda, adesso provo a inserire il processore. Vabbè, prova, dai, vediamo. Adesso così ho inserito il processore, no, è disinserito così il processore, così è disinserito. Appunto, me l'hai vedato come è inserito, è disinserito così, così è disinserito e si abbassa molto la modulazione. È chiara, però è molto bassa, cioè molto, non molto molto, è comprensibile, però prima era più spinta, te l'ho detto anche nel passaggio precedente, si sentiva che era molto spinta quando c'è il processore. Allora, adesso sono col processore. Poco fa il primo passaggio che ti ho fatto, quando ero senza processore con Mickey Gain più alto, come ti sembrava? Migliore o peggiore? No, come chiarezza probabilmente io preferisco l'altra, perché questa spinta devo dire che rompe quasi i timpani. Però è chiara, non ci sono dubbi. Va bene, nelle due versioni va bene, tutti e due i modi. Allora, invece questa è senza processore, ma raddoppiando praticamente il Mickey Gain. Ma non mi sembra che sia cambiato niente dall'ultimo passaggio che hai fatto prima di questo. Vedi, adesso abbasso, dipende, ho capito, anche il processore, poi uno può aumentare il Mickey Gain o il processore, dipende, così sono col processore e il Mickey Gain A2, poco fa ero senza processore e Mickey Gain A4. Ok, se a una persona le piace una modulazione spacca orecchie, va bene così, io lo preferisco senza processore e come la prima del Mickey Gain, perché è chiarissima, bella e abbastanza forte. Ecco, quindi tu diciamo che la preferisci in questa maniera, giusto? Così ti va meglio a te. Sì, per me va meglio così, perlomeno con questo apparecchio si sente meglio così, cioè c'è meno spinta, ma è abbastanza bella. Ho capito, no, perché stavo terminando, era un po' che lo dovevo fare, siccome c'avevo due 4.40 e un 4.30 fermi, e ho detto quando ho tempo sono, c'erano una ventina di giorni tra uno e l'altro, perché ho ricostruito quello, ne ho preso un altro, li stavo tutti mettendo, riallineando, ricontrollandoli di elettronica, poi gli ho fatto anche la parte esterna, ho trovato di alcuni frontalini ancora in scatola, nuovi fondi di magazzino, ho fatto fare, devi vedere, sono usciti tutti e tre come nuovi, come uscendo dalla fabbrica, e quindi questo era l'ultimo che mi stava facendo impazzire, l'ho terminato ieri notte, adesso volevo fare delle prove in 27 come andava, poi provo a fare qualche passaggio in 40, però così posso iniziare a chiudere il coperchio. Ok, sì, no, per la M va benissimo così, per conto mio, poi quando passi in 40 giustamente sei in banda, e allora il discorso non so cosa dirti, perché io al momento ti sto ascoltando col baracchino. Ecco, il baracchino io ci sento meglio così, senza il processore. Ripeto, anche col processore è comprensibilissima, però si sente troppo spinta. A me non piace così ascoltare una M con una modulazione così spinta, perché per me è spaccolica e basta. Sì, ho capito. No, io questo poi ce l'avevo fermo, perché ogni tanto dava un problemino e ho detto, vabbè, io anche gli ho detto, ma dovevo fare tutto un tipo di lavoro. E poi non aveva il filtro in AM, il 4.30, se non è il filtro in AM, in ricezione ovviamente non riceve a 6 kHz, ma riceve a 2.4, 2.7, non so quanto è il filtro. E quindi era brutta la ricezione. E quindi adesso ho trovato il filtro, allora gli ho messo mano e lo volevo rimettere a posto. Infatti adesso in AM va benissimo, perché se no il 4.30, se non c'è il filtro non è possibile usarlo in AM. Ok, sì, va bene, dai, va bene, nelle due versioni, a me piace così come adesso, poi se a non mi piace più il processore, dovrei chiedere a Coca, perlomeno in AM, io sto parlando di AM, e con questo barattino, se poi con un altro barattino cambia modulatore, questo non te lo posso dire, non lo so, perché al momento, ripeto, sto usando un Superstar, e dunque il Superstar ha delle riceve in maniera abbastanza con ottoni alti, diciamo, dai. Per cui va bene, pertanto se ci inserisci il processore proprio al livello stacca orecchie per i miei gusti, però va bene comunque, va benissimo così. Fabri, vedi un po' tu cosa devi fare, chieda a qualche altro, magari manda, poi così ti saprai regolare. Per me va bene così, senza il processore. Col processore, ripeto, va benissimo ugualmente, però per me è troppo forte. A parte un discorso che quando mi hai fatto sentire il passaggio, che allora strappava, eccetera. Lasciamo a parte quello, quello è fuori discussione, lo strappo non ci deve essere. Ok? Sì, no, ti ringrazio. No, era solo per vedere praticamente se era a posto, perché l'istrumentazione era a posto, però volevo vedere un attimo in aria, ancora non l'avevo provata. E poi te volevo dire, questa è una cosa. Ascolta, un passaggio in AM lo puoi fare tu? Siamo in AM. Oh. Siamo in AM, stai confondendo. Scusa, in FM volevo dire. Sì, posso provare con questo o con questo baracchino, vediamo un po'. Passiamo in FM, vai, così ti do. Faccio l'ultima tarattura a caldo, aspetta per vedere se becco eccolo, cacchio, minchia, devo togliere il, aspetta, se riesco senza togliere il copper devo fare un ritocchino. Esageratamente pignoli, dai. Ok, così come stai modulando è perfetta, è meravigliosa, una bellissima modulazione, chiara, proprio bella, comprensibile e abbastanza forte. Sì, no, adesso va bene, era, ti ripeto, avevo la verità, avevo questo 430 che ce l'avevo fermo perché mi veniva male in usarlo, lo usavo in 27, avevo il problema del che mancava il filtro. mancando il filtro si ascoltava male, e una volta che gli ho messo il filtro ne ho approfittato per fare una serie di lavori una volta che l'ho aperto, e cioè, poi alla fine mi ha dato prove, ci ho messo ne approfitto ancora per fare questa, quel tocco, e ci ho messo un sacco di tempo perché devo fare. Invece poi ho due 430 bellissimi, uno l'avevo preso, ce l'avevo e dovevo rifare, aspetta, dovevo fare una io sto facendo una tarattura, aspetta, se riesco senza smontare questo coperchio, affanculo, è andata via, aspetta che mi è andata via, mi si è spostato, aspetta che mi si è spostato lo strumento, io lo stavo toccando le tarature, invece era lo strumento che si era spostato alla misura, e stavo dicendo, è praticamente ciò, questo che l'ho finito adesso fra 10 minuti, lo ritiro, questo 2440, di cui uno lo tengo io, accanto, perfetto, uno lo tengo io e l'altro lo vendo, sono come nuovi praticamente, e controllati tutto quanto, uno era quel, ce l'aveva cosa, mi si chiama, che gliel'ho comprato e ho ricostruito i VCO, però se ti capita sappatelo che quando comprate il T440 dovete controllare se i VCO sono il 5 e le VCO, praticamente fai il cambio bande, quelli devono essere stati rifatti, se no prima o poi tanto il 440 dà problemi su quella parte lì. Lo so, diciamo che ti voglio fare un piccolo discorsetto. A me sul 440 tempo fa, risale a 3-4 mesi fa, appena l'ho acceso c'erano i puntini relativi a questo fatto del VCO. Poi ascoltando un QSO in 40 metri ho sentito un radioamatore di fuori, italiano naturalmente, perché se no non capisco l'altra lingua, che tra l'altro era anche un tecnico, soprattutto un tecnico di radiotrasmissione, così, no? E lui aveva spiegato che quando si formavano questi puntini non era altro che una perdita di isolamento nei condensatori relativi appunto al VCO. Sì, però dice, quando lo fai scaldare bastano 10 minuti e tutto ritorna regolare. E devo dire che aveva verità, ha detto la verità, perché a me mi è successo quasi 3-4 mesi fa. Poi non me l'ha più fatto. Ripeto, io lo accendo tutti i santissimi giorni il 440, no? E non mi ha fatto più quel difetto, Fabio. Non so che è un difetto del 440, vai? Sì, no, non è proprio come diceva questo. Allora, ti spiego cosa succede. Io ne avrò fatto forse una decina già, ne ho fatto di questi lavori. Il problema è che è un lavoro molto complesso, nel senso che devi smontare due schede, il VCO, devi cambiare il VCO, cioè il VCO 5 che è il primo, che va tarato per 5 volte, e gli altri 2-5 vanno tarati, gli altri 4 VCO. E il problema è che tu praticamente devi, il lavoro è complesso, devi smontare la scheda IF e l'altra scheda, vanno smontati completamente le schede, smantellate quella parte, è la colla induttiva il problema, non sono i condensatori. Cosa succede? Allora nei VCO, perché siccome sono trasportabili questi, viene inserita una colla, che non è una colla, è la cera. Questa cera col tempo, in alcune serie, nella maggior parte delle serie, questa colla si è seccata, tu la apri, è come il bostic, e quindi diventa conduttiva, diventando conduttiva lui non riesce più a mantenere queste tensioni. Quindi cosa dobbiamo fare? Bisogna smontare tutti i componenti. Il problema, bisogna stare attenti a non rompere i 4 transistor, perché quelli difficilissimi trovarli, io devo essere sincero, ne ho una coppia di 4 che hanno praticamente un valore inestimabile, perché non si trovano. Quindi una volta che tu rompi, smonti qua, devi tutto smontare, devi cambiare tutti i condensatori, i ceramici, tutto quanto, devi ripulire tutto, rimontare tutto, cambiare tutti questi componenti, diodi, ma quelle cose bene o male le trovi, alcuni anche negli Stati Uniti li ho ordinati, poi rimonti tutto e gli rifai l'allineamento di quella parte, e lui va bene. Infatti quando uno compra un 4, bisogna togliere il coperchio e vedere se è stato fatto quel lavoro. Se è stato fatto quel lavoro, bene. Se non ci vogliono, se tu lo mandi fuori, ti chiedono 190-200 euro per fare quel lavoro. Quindi l'apparecchio vale la metà se non è stato fatto quel lavoro. Tanto prima o poi te lo fa. Per esempio, se a te te l'ha fatta adesso, vuol dire che sta iniziando a succedere. Bisognerebbe vedere una cosa. Può essere magari che il tuo è solamente da regolare una tensione. Magari c'è solamente, se un giorno capiti, lo mettiamo lì un tester e io ti regolo una tensione. Certo, magari è solo un problema di caratura e magari te lo risolvi. Perché se no prima o poi ti darà questo problema. E il problema è, per esempio, anche quello di Cosa, anche quello di Roberto avevo fatto quadrato da poco, gli avevo fatto questo lavoro. E infatti ha ripreso a funzionare senza problemi. Perché non è un danno importante, però cioè, importante cosa ti intendo, non è un danno grosso, è come però porta via parecchie ore, porta via almeno quasi 6-7 ore di lavoro ci vuole, diciamo, 5 ore sono sicure, alle volte te ne porta anche di più, perché va smontato e fatto tutta una serie di lavori, c'è lavoro da fare. Sì, ma è più o meno quello che ho detto io stesso, Paoli, perché io non ti ho fatto una spiegazione completa, è appunto quello che perde, io ti ho detto che perde l'isolamento, e appunto mi riferivo proprio a quei condensatori che sono isolati appunto da questa specie di matrice o quell'accidente di isolante. E questo radiotecnico ha detto che praticamente si forma una condensa e allora manda in corto un po' i contatti, non essendoci più questo isolamento. Per cui il discorso nasce proprio da quello, cioè il difetto nasce proprio da quello. Ed è quello, in pratica stai dicendo la stessa cosa che ha detto questo radiotecnico, radioamatore, che non so di dove era, forse dalle parti di Roma, non lo so, comunque stavo ascoltando io e ho ascoltato attentamente e lui ha spiegato chiaramente a chiare lettere che è quello. Dice c'è questo isolamento, che questo isolamento a un certo momento non funziona più come dovrebbe e si forma questa specie di condensa, si forma. Ecco il motivo per cui dopo che tu lo accendi 10 minuti la radio scalda, la condensa si asciuga ed ecco che il contatto non c'è più, questa induzione tra i componenti. Ecco, praticamente è la stessa cosa che hai detto tu, ti sto dicendo io, Fabio. Sì, questo è quello praticamente che, allora cosa succede? Non è la condensa, non è che crea la condensa, sì, che asciuga, magari ci può essere un filo di condensa. Allora, quando questa colla diventa praticamente conduttiva, ma soprattutto diventa, non c'è più bisogno, a un certo punto non c'è nemmeno più bisogno di condensa, di niente, a quel punto, una volta diventa conduttivo, ne hai da fare, non puoi farlo scaldare quanto vuoi, lui ha necessità di questo tipo di lavoro da fare. Addirittura ancora peggio, perché se non vieni intervieni come bisogna intervenire, succede praticamente, ancora peggio ti succede praticamente che ti corrode tutto quanto, quindi finché ti corrode tutti i componenti l'intorno non te ne frega niente, quelli li cambi, non hai nessun problema. La paura è che ti vengano a corrodere i transistor. Se ti partono quei quattro transistor non si trovano, è difficilissimo trovarli, nemmeno l'equivalente trovi, quindi in tutti i forum tu vai a lei e dici mi raccomando quando smontate state molto attenti a non rompere i quattro transistor, quello è importante. Poi per il resto trovi tutto, condensatori ceramici eccetera eccetera, ma sono da cambiare perché l'ultimo che ho fatto io sono andato solo a pulire, ho recuperato alcune, ma alla fine su un VCO io sono uscito di testa, a un certo punto perdevo una parte di frequenza, alla fine era un condensatorino ceramico che costerà 5 centesimi, 2 centesimi, alla fine era quello che mi ha fatto impazzire, ma sei le ore che ho perso dietro questa roba qua, lasciamo perdere. Quindi il prossimo che faccio, mi prendo tutti i componenti, perché poi parliamo di poche euro di componenti, è solo che molto, li prendo tutti i componenti, smonto tutto e cambio direttamente tutto, senza stare a perdere tempo. Sì, capisco, è la soluzione migliore proprio quello, cambiare direttamente tutto, poi tu ormai che hai già fatto esperienza e sai di cosa si tratta, per cui ti conviene appunto prepararti tutti i componenti e così almeno risolvi in maniera più veloce il problema, certo, sì. Ok Fabri, senz'altro, guarda, se mi dovesse succedere ancora, casomai posso consultarti? Sì, mi chiami e lo vediamo. Io non vorrei che, però se te lo sta facendo così, potrebbe anche solo essere, o sta iniziando e prima o poi te lo fa, oppure potrebbe essere solamente magari una tensione da regolare, potrebbe anche essere quello, però è strano che perda queste, però se te l'ha fatta una volta così, potrebbe essere, bisognerebbe vedere, no, non lo so, bisognerebbe vedere, però potrebbe essere anche una cosa del genere, bisognerebbe vedere, non lo so, perché lì ci sono praticamente, tu prima si fa la taratura del si fa la taratura del VCO5 sulla scheda IF e poi si procede sulle altre 4 VCO e devono dare una tensione di 2,5 e poi in check, vuol dire in check praticamente lo porti a fine cambio banda, perché se non sbaglio sono 4, sì, nel 4,40, al fine cambio banda, per esempio a 24, 1 è 7,4999, poi scatta 7,5, lì devi avere 6,5. Quando hai queste due tensioni di riferimento giusto, la radio tranquilla che su quella fetta di frequenza problemi non ne hai, ti va bene. Ok, sì, adesso ti volevo anche dire che a me questo difetto me l'ha fatto appunto su 14,000, per cui 20 metri mi sembra dovrebbe essere, no, 14,000 su quella banda lì me l'aveva fatto, l'avevo acceso così subito direttamente sono andato ad ascoltare 20 metri, se non sbaglio, 14,000 era 14,300, una cosa del genere, dunque 20 metri, e me l'ha fatto lì, ma è durato qualche minuto, Fabio, appunto come ti stavo dicendo, poi da allora non me l'ha più fatto, veramente, infatti lo controllo, intanto lo controllo, siccome io generalmente lo tengo sintonizzato in 40, lo ascolto in 40 quando ne ho voglia di farlo, però passo anche subito anche in 20 metri per vedere se appunto fa col difetto, non me l'ha più fatto Fabio, mi spiego? Sì, guarda, aspetta, tanto io sono tutto qua, in questo momento c'ho tutto aperto, qua 3:30, ti dico tu cosa devi controllare, aspetta, vado a prendere un attimino il manual service, te lo dico subito, tu devi fare due controlli, ho capito, dico così le bande, cosa devi controllare per capire esattamente, perché magari tu controlli su quella fetta di frequenza, però se ti sposti, aspetta, commutatori, manuali radio, se tu ti sposti magari rischi che in V2440, magari ti rendi conto che magari non, da qualche parte te lo sta facendo, adesso te lo dico. Ok, d'accordo, Fabio, ti ringrazio, dai, aspetto qua. E ce l'ho qua davanti, lasciami trovare la parte dell'allineamento della radio e te lo dico subito. Allora, qui sono tutti quanti gli schemi, aspetta, ta-ta-ta, eccolo qua, fammi aprire, ok, allora, più, allora, RX, X, niente, aspetta, IF, PL, VCO2, ecco qua, VCO5, VCO4, VCO5, c'è il primo, il VCO, ecco qua, praticamente su sulla scheda PL devi avere 5 volte, quello non hai problemi tu, perché te lo fa solo su una banda, quindi bisognerebbe cambiare, dopo tu devi controllare questo praticamente, T1, T2, ecco qua, 14, aspetta un attimino, perché poi il manual service, anche se lo controlli, aspetta che mi trovo che me l'avevo segnata, anche se tu lo controlli c'è un errore su quel manual service, perché ti dice una cosa e invece non è così, capito, non è proprio come ti dice lui, c'è un errore proprio sulle frequenze dove devi andare a controllare, sul VCO3 mi sembra. Ok, sì, no, il manuale io non ce l'ho, Fabri, io l'avevo trovato sul computer il manuale e mi avevo praticamente caricato le pagine che mi servivano più che altro per capire tutto il funzionamento eccetera eccetera, però non ho scaricato tutto, ci voleva una cartuccia intera, perché se tu lo scarichi sai com'è, ma mi sono scaricato un po' di pagine, quelle che più ho ritenuto opportuno, che mi servivano appunto per capire tutti i comandi eccetera, solo per quello, ma per l'intero non ce l'ho il manuale Sì, ma quello lo trovi, aspetta, sto cercando una cosa, ecco qua. Allora, praticamente, eccolo qua. Allora, tu praticamente, allora, quello che tu devi controllare, allora, le bande SFI, se tu fai 29.9999, poi scendi a 22.000, tu ti renderai conto che tra 22.000 e passi un hertz sopra, per esempio dal 22.000 a 21.9999, senti proprio scattare, senti tac tac, senti proprio il cambio, tac tac, senti il cambio di banda. Allora tu praticamente il primo VCO ce l'hai a 29.999 e 22.000. Allora, questo qua devi fare il controllo, se lui va bene a 29.99 e a 22.000, poi metti magari 22.002, tanto sentirai scattare. Ecco, questo è un limite del primo VCO, diciamo della prima, del primo VCO, della prima parte della frequenza. Se poi te lo vuoi segnare, ti devi. Poi c'è il secondo, ti fa da 21.9999 a 14.500. Questa è la seconda parte, è il T22 praticamente, fai questo aggiustamento. Poi c'hai l'altro che fa da 14.4999 a 7.005. Questa è l'altra cambio di banda e l'altro fa da 7.499 a 3 kHz. E questo è l'altro, quindi sono praticamente i 4 VCO, quindi se ti ha dato problemi quello lì, sei su questo VCO dal 14.499 a 7.005, quindi se te l'ha fatto a 14.2, potrebbe essere che se scendi a 10, magari a 10 MHz, lui probabilmente non ti aggancia più, si sgancia dal PLL. Ho capito, sì, se lo ripeti di nuovo tutte quelle frequenze, 22, 29, 99, e poi le altre, così me le sto scrivendo, così poi faccio questo controllo, Fabri, ti dispiace ripetere per cortesia. Sì, allora segnati, allora tu praticamente devi segnare 29.999, quindi sino a 30 sali praticamente, 29.999 e l'altra è 22.0000. Ok, questa è una fetta di frequenza, diciamo, è il primo VCO, diciamo il quarto VCO, dai, perché è quello superiore. Il terzultimo è 21.9999 e vai a 14.500. Dimmi se ci sei. Sì, ci sono. Sì, 21.999, 14.500, ok? Sì, poi l'altro è 14.4999 e vai a 7.5000. 7500, hai detto? Sì, 7500. Ok, sì, li ho scritti tutti e tre. Poi l'altro è 7.4999 e poi vicino a finire a 30 kHz. 7499 sino a 30, 0,30 o 30 direttamente? Sino alla fine banda, che 30 kHz che fa la radio, sino alla fine. Ok, ho capito, ho scritto tutto, Fabio, grazie. Se poi tu ti fai un controllo, ti renderai conto che quando arrivi a 22 e scendi a 21.99, senti tac, tac, senti proprio scattare, dovresti sentire tac, dovresti proprio sentire i relè che scattano e cambiano la banda. Ok, sì, quello l'avevo memorizzato bene. Ascolta, quello lo fa anche in tutte le altre frequenze anche, quando scendo da una estremità all'altra, questo TAC, o solamente lì da 29.99 a 22. Su una di queste lo fa, non me lo ricordo esattamente, dovrei guardare un attimino il cambio di banda quando lo fa, dovrei vedere il cambio di banda, adesso questo non me lo ricordo, dovrei rileggermi il letteratura e il manuale per vedere dove c'è la scheda filtri, quella, sulla scheda filtri ci sono le bande, bisogna vedere quali sono i cambi bande, adesso non me lo ricordo, ma te lo dico subito, guarda, adesso te lo dico dove deve cambiare di banda, senza leggere nemmeno, qui c'è un 440, lo accendo e te lo dico subito. Allora, togliamo qua, aspetta. Sì, allora qua inizi. Qui senti proprio, ti fa proprio il cambio di banda. 14.5, tu senti 14.49, senti il cambio di banda. Poi l'altro abbiamo detto 7.49, poi abbiamo detto 7.49. 7.49. Sì, ti fa i cambi di banda, corrispondono proprio con i VCO4, poi fa 21.999. 21, perché qui era quell'errore che faceva, che è sbagliato nel manuale quello che dice, infatti sì, è praticamente tu, è praticamente sì, il, tu ogni volta che tu vedi ti renderai conto che ti fa il cambio di banda. Ok, ho capito Fabio, sì vabbè, praticamente a ogni cambio di banda dovrebbe fare quel rumorino, dai, così chiamato tac o qualcosa del genere. Ok, ho capito. Sì, praticamente sono sulla scheda filtri, stai cambiando, quando cambi la banda, praticamente va su un'altra parte della scheda filtri dove il segnale scattano i vari relè e ti porta sulla parte della scheda filtri dove passa il segnale, dove c'è proprio i filtri che filtrano quella parte di segnale, sia in trasmissione che in ricezione. Se tu guardi su dove ci sono praticamente tutte quelle bobine eccetera eccetera, quella che c'è dietro, quella è la scheda filtri. Vabbè, registrato un attimo. Sì, ok, sì, va bene. Ti ringrazio per l'informazione. Vediamo, facciamo venire avanti, forse Gianni questo. Gianni, sei tu? Ehi, buonasera a tutti, dai. Ciao Fabrizio, sono a capo. Ciao Gianni, ben sentito. Allora Fabrizio, cosa mi racconti di bello? Niente, già, cosa ti racconto? Sì, io sono Radio Pocca, ultimamente in Bari non ho fatto, sono 20 giorni che non faccio un collegamento, sono sempre qui, quando ho tempo che stavo mettendomi a posto delle radio, poi già lo sai che sono pignolo su alcune cose, quindi le volevo far tornare sia nuove, sia elettricamente che soprattutto anche esteticamente. Ah, e quindi l'hai risumato, delle radio che andavano bene, avevo il mio 430 praticamente che era a posto, solo che in AM non è che andava molto bene perché mancando il filtro in AM, come dicevo, ha necessità del filtro, non avendo il filtro non ha un ottimo ascolto, perché devi ascoltare a 6 kHz, allora ho avuto la fortuna di trovare il filtro in AM, l'ho comprato anche a un prezzo ragionevole, perché se no se ne chiedono 100 euro per questo filtro e non ne vale la pena, invece ho trovato un prezzo ragionevole, allora glielo stavo. Una volta che lo stavo montando gli ho messo mano sopra e te dici che gli facciamo due allineamenti, ho iniziato a controllare, a vedere, ho iniziato a dare problemi perché ogni tanto in effetti dava qualche problema, è il solito problema che devi mettere lì e sprecarci ore, tirare giù le schede, rifare tutte le saldature perché è roba di 35-40 e quindi i lavori che bisogna fare in queste radio, ho detto questa volta gli faccio un lavoro che dovrebbe essere definitivo e quindi praticamente adesso questa è la radio, il 430 che lo sto richiudendo, è praticamente anche da vedere, bellissimo, e poi quello che stavo dicendo, gli altri giorni invece c'avevo il mio 440 che avevo lì, che avevo preso tempo fa, che dovevo rifargli due controlli, e poi un altro che ho preso lì di cosa, mi sfugge il nome, di assorso, che era inutile, e anche quello gli ho dovuto rifare tutti i VCO, riallinearlo, poi avevo un problema che era assorso perché aveva proprio un problema su... c'era un boom, non mi ricordo cosa c'aveva, un piccolo problemino, era assurdo, avevano sollevato sulla lo smitter per far sembrare che era normale, là invece era assurdo, quindi ho messo a parte la porta, ho riallineato, ho ricontrollato il le due cose, finito, rifatti i coperchi, tutto quanto, poi ho trovato addirittura, come dicevo, il frontalino nuovo ancora a fondo di magazzino che ho trovato nuovo, quindi ho cambiato quella e quindi sono tornati belli, quelli veramente, quando capita che li faccio vedere sono veramente belli, la verità, non perché li ho, perché anche quando li vedi esteticamente che non hanno un graffio fanno piacere. Adesso che sono pronti per dire a me. E 1, 2, 1, 4, 40 me lo tengo io, perché uno lo voglio tenere, mentre uno probabilmente lo do via, tanto, cioè io praticamente mi piace tenerlo un 4,40 perché se fai qualche passaggio qui o per averlo eccetera eccetera, però poi di due non me ne faccio niente, uno lo darò via e darò via anche questo 4,30 credo, non lo so, vediamo un po', adesso li stavo mettendo, li volevo ricontrollare, vai, e poi vediamo. Ah, la mia era una cosa che non so, perché c'è tutta la cosa piena, io mi sono rubito i lumi, tanto c'è poca gente qua, io la prima che ho fatto, ma c'è poca gente, non è male la pena di stare a prendere a parare, ne ho già 1, 2, 3, 4 in stazione, più ne ho altri 2 che sono conservati, quindi bastano così. Sì, no, ma non è valido, nel senso che vanno bene, diciamo che questi vanno bene perché vanno bene i 27, se uno vuole farsi 4 passaggi, e poi vanno bene perché puoi ascoltare da tutte le parti, eccetera, eccetera, eccetera, quindi è piacevole anche per quello, capito? Vanno bene per quello, giusto, se no poi alla fine il baracchino va più che bene. Sì, va bene, la cosa che ho di digitare adesso, Fabrizio, ascolti, anche di circuitori non servono più, va bene, vai. Sì, vabbè, dipende da cosa devi ascoltare, però voglio dire, per le bande radioamatoriali vanno più che bene. Sì, quello sì, quello è vero. Ci sente solo dove è giusto? Sì, cioè io e Giulio, adesso mi sto cercando, terminando di chiudere questa cosa, se trovo le vitti. Sì, va bene, non mi sta tenendo molto, perché poi stanotte sono in gioco e quindi devo andare a preparare, mi vengono a prendere. Poi, sono anche un po' stanchino, e non è che non c'è molta gara, ma non è fatto ci vuole. Stanni, però qui ti è considerato che c'è un'occasione, al momento, che te ne potrebbe dare uno, perché non te lo prendi un 4,40, anche se tu, come stai dicendo tu, che faccio un digitale, beh, ma tanto poi tu lo usi una M, e dà una modulazione perfetta il 4,40, lo sai, no? Sì, già lo so, ma è tutto pieno qua, e cosa ne tolgo? Mi piacciono tutti gli apparecchi, la parte che ho qua, tutti mi piacciono, già non mi piace. E l'unico che non devo tenere è quello che usavo in macchina, perché con lui disturba, si sa che se non modificato disturba gli altri, quindi non lo accendo nemmeno, cioè lo accendo però faccio ascolto e basta. Perché magari disturba proprio perché ti prende le ruote e non c'è posto di più. Non ho posto. E poi adesso c'ho quella spesa, già lo sa. Sì, va bene, già, non saranno queste poche spicciole, queste qualche centinaio di euro, così. Io ce l'ho, se no me l'avrei preso, guarda. E poi il mio è anche nuovo, sinceramente. Infatti stavo illustrando il problema che avevo verificato 3-4 mesi fa, più o meno, mi erano apparsi dei puntini, perché poi non li ho più rivisti, io già, quando lo mettevo in 20 metri, così inizialmente, no, per acceso, mi era apparso una serie di puntini proprio sul VCO, e appunto stavo parlando, adesso mi ha dato tutte le indicazioni, Fabrizio, eccetera eccetera, tanto più che io avevo già sentito un radioamatore al continente le stesse cose che ho sentito me le ha illustrate Fabrizio, per cui corrispondono al 100%, ed è così in effetti, va bene, e se non me l'avrei preso io me l'avrei comprato, ma ciao, dunque ripeto, il mio è nuovo, anche se non lo uso, anche cioè lo uso nel senso lo uso poco, perché ogni tanto già lo faccio funzionare in AM. E poi già ascolto anche in 40 metri e anche in altre frequenze, non ci sono problemi, io ho già. Per cui mi piace averlo, ecco. Sì, io lo uso anche io. Già lo so, si può ascoltare quando sei annoiato che non c'è solo 27 per fare le bande radio autore, lo ascolti lì, non è che. Ma momentaneamente no, magari più là. Adesso vediamo, se la frequenza migliora, perché mi sai, come quella studia, no? Cioè in frequenza ci rimane chi è veramente appassionato alla radio, non le persone. Siamo rimasti noi, il problema, sai qual è, Ogia, che si è diviso o il gruppo o un po' sul 23 e un po' sul 10, se no saremmo stati anche meglio tutti insieme, invece no, ci sono delle cose contrastanti fra persone, allora tu lo sai, è successo anche quello, per cui tante volte sul 10 non c'è nessuno, ma quando non c'è nessuno qua io passo sul 23, se c'è gente scambio quattro chiacchiere lì, ecco come faccio, per quale motivo non devo spostarmi, non ci sono problemi. Io, guarda, sinceramente, se fossi in te ne avrei approfittato in questo momento, visto che Fabrizio ha questa apparecchiatura e te la dà anche in maniera praticamente buona, ecco, nel senso che l'ha sistemata per menino. Per cui poi se già lo sai che Fabrizio è una persona seria, no, non ti sta dicendo che ti va. Se posso già magari una volta me lo metto sopra, perché i giudicali sono tutti quanti pieni, c'ho il manico sopra, arriva il cadavere e lo svetro manico, poi c'ho il computer sopra, il garage, il cobra, già, ma devi pensare anche ad esempio in estate quando ci sono i collegamenti di preparazione eccetera, con quasi 40 è tutto il nostro discorso, togli un baracchino ci metti 4,40, dai, prenditelo, tanto cosa vuoi, costa una miseria, non è considerando la radio che oggi un baracchino nuovo, se tu vuoi comprare un baracchino nuovo costa quanto può costare un 4,40 di seconda mano, per cui io ne avrei approfittato, se tu ti trattieni magari poi Fabrizio da qualcun altro e poi non ce l'hai più. Emi, qua sono, io vi stavo ascoltando, anche io ho risposto al telefono che devo andare anche a mangiare fuori. Mi manca l'ultima pizza, la sto cercando, scusate. E così anche questo, adesso mi sto usando un 430 oggi. Adesso sono senza processore e con l'MC60. Allora, così ho messo il processore e ho abbassato il mic gain. Bella, forte così. L'altra sembra una radio normale, dico la verità, non sembrava con l'MC60, sembra un microfono normale. Così praticamente sono col... forse è troppo alto anche il mic gain, sono il mic gain a 3 e il processore. E anche troppo alto. Questo secondo me va così, a 2 col processore, così sembra che dovrebbe andare meglio. Come ti sembra così già? Limpida, chiara, presente, bella. Non è da guerriero, nel senso che non è da combattimento, ma comunque è chiarissima, è chiara e limpida. Allora guarda, sto sollevando leggermente, adesso in questa maniera come la senti? Adesso la parte è un po' distorce un po'. Beh, allora così, a 2 e col processore e con l'MC60, per la mia voce dovrebbe andare bene così. E uno, Fabrizio ultimo. E va bene, dai, questo ce l'avevo un sacco di tempo, non lo usavo perché ogni volta che andavo ad ascoltare senza filtri questo non andava bene, non si poteva sentire senza filtro, già non era possibile, non, perché purtroppo il 430 necessita del filtro in AM per poter ascoltare, se no ovviamente non senti a 6 kHz ma forse a 2,7 sentivi o qualcosa del genere, non mi ricordo che filtro monta, perché questo dalla casa monta il filtro a montaggio a lui, questo qua, uno, poi volendo si possono mettere l'altro filtro, il NAR e l'altro filtro per il CW doppio. Gli avevo già detto io, come gli hai dati tu, gli hai dati uguali, identici, gruppi, guarda, lo può confermare Fabrizio, guarda che siamo qua da 15-20 minuti qua, che stavamo parlando proprio di quello, e dunque io gli ho fatto fare quelle regolazioni, e mi fa piacere che anche tu hai dato le stesse regolazioni che ho detto io, confermi Fabrizio. Sì, le stesse, va bene, quindi diciamo che si può sentire. C'è una modulazione normale, no? Il Michelin A4 va bene, oppure A2 col processore inserito e lui spinge come devono spingere. Sì, va benissimo così. Va bene già, e appunto è quello che stavo dicendo già. Dai, faccio un pensierino, dai. Adesso ce l'ha poco che sto comprando. Lo so, dai, fregate, un piccolo sforzo. Così sei tranquillo, almeno. Ma sai cos'è? Hai dato un grosso anticipo, quindi adesso sono un po' a secco. E allora impegnatelo con Fabrizio, allora che ho bisogno di quei soldi al momento, impegnati con lui, fra un po' di tempo lo prendi, no? Fabrizio, no, va bene quello che sto dicendo. Sì, non è un problema, ma lasciali la testa Gianni, non vedi che è impegnato in questo periodo, c'è tanto che è impegnato in altre cose. Esatto. Sì, lo so, va bene, vedi tu, io non so cosa dirti. No, guarda, c'è una ancora, lo lascio libero, se devo prenderlo magari tra qualche giornata lo prendo. Non è un problema, non è che cazzo, adesso mi sono preso la mano, quindi ho avuto spese. Capito, che macchina hai preso? La tipo quella 1004 turbo, benzina e cose GPS. Ho capito, e anche io l'ho cambiata qualche mese fa. Tu che cosa hai preso? La Pregia? Sì, un'altra, il modello nuovo. E che colore fa? È tipo canna di fucile scuro. È bello quel colore, fa anche la tipo così. È molto bello quel colore. Praticamente è nuova, diciamo, come le prendo io sempre, 6 mesi di vita, 8 mesi di vita, 12.000 km, così le prendo, vado fuori e le porto giù io, capito? 3 anni di garanzia, senza problemi, quindi c'è altri 2 anni di garanzia, adesso ce l'ho già, ce l'ho 3-4 mesi già. Buono, fuori come andare, qua non c'è il mercato, sono andato a fare un giro per quelle usate, ma costano quasi quanto quelle nuove. Ne ho visto una che l'hanno presa, che era di quelle dei leasing, che avevano con leasing, che aveva 25.000 km, la moderna 22.000 euro, ma un fumetti sì, ma la compra nuova per questo. Io infatti vado fuori e se lo devo comprare, e così mi risparmio un pochettino, almeno lì per qualche soldo lo risparmio. Vabbè, questo mio collega l'ha presa a Brescia, si è preso la Ranger Rover. Le volte bisogna avere anche fortuna di trovare qualcosa del genere. Sì, ma anche quelle aziendali non convengono, perché sono sempre a seconda mano, se magari hanno fatto in effetto, poi se avversano la mia, proprio perché la mia non ce la fa più, prende l'accelerata a volte non cammina, tu devi spegnere la presentarla e riaccenderla, e quando lo fai camminando ti si blocca con cazzo e ti dico Lo so, io infatti le macchine le tengo quante 3-4 anni le tengo, e poi le verso che hanno 4 anni e mezzo, 5 e via. Sì, perché poi alla fine non te le valutano nulla, ce le butti via, devi pagare per rottamare pure. Come sto facendo io adesso, io ce l'ho 12 anni, la macchina non mi ha mai dato problemi, ma adesso ultimamente mi sta dando questo problema qua. Devo cambiare tutte le gomme, la batteria, ho fatto i freni, cambiare la cicatrice di istruzione, ci avevo speso un po' di soldi perché la volevo tenere ancora un po', prima di cambiare, invece non ce la fa più, sta anche grattando le mani, adesso sicuramente sta per questa prossima donna. è così, no, non conviene, la macchina la devi avere un tot di anni, o se la usi per lavoro, che fai chilometri, fai prima a cambiarla, va. Lo so, ma tante volte ci sono le priorità, bisogna guardare prima le cose essenziali, poi si pensa alla macchina, è così che facciamo noi, i poveri mortali. Che ci hanno soldi per cambiare lo sesso. Ah, mio fratello aveva comprato un BMW in continente, mi sembra che era Verona, boh, non ricordo bene, ed era tutto accessoriato, ma veramente bello, una macchina che da nuova costa roba di 55-60 mila euro, una cosa del genere. L'ha lasciato per una sola notte, dopo mesi che ce l'aveva, in strada, perché c'era un ferro che quando, siccome era il cancello scorrevole, ma c'era questo ferro troppo alto, l'ha lasciato proprio fuori in strada, perché proprio per paura di non toccare sotto con questo ferro, e l'hanno incendiata, in cose del suo mondo. L'aveva pagata 8.000 euro in contante, ha mandato il figlio a Verona, mi sembra che era andato, e non l'ha portata lui, ma era talmente nuova questa macchina da mettere, guarda, in salone per rivenderla come nuova. Era bellissima, ma veramente bella, e lui non lo sopporta ancora, ne risente. Quello gliel'hanno fatto per dispetto, io vabbè, già la mia già dorme in garage, perché fuori non la lascio. Il garage è molto importante, la macchina è molto importante. Purtroppo è stato sfortunato così, e ti dirò di più, siccome dietro della sua macchina ce n'era un'altra, ha preso fuoco anche l'altra macchina, per cui ha dovuto pagare anche la macchina che ha preso fuoco, perché era partito dalla macchina sua, è partito. Probabilmente qualcuno per gelosia, o qualche disgraziato, che poi naturalmente non sai come succede, no, queste persone sono dei delinquenti e basta, e tutto lì, chi capita capita, non è che non gliene frega niente di vedere chi è e di chi non è. Quando devono fare il danno, la prima macchina che trovano prende e fanno danno, ecco com'è il discorso. Beh, quando non hai un posto per metterla, o la metti all'interno, sono sempre soggetti a... Io mi ricordo che quando andavo a Portoglio in treno, parcheggiavo la macchina alla stazione, era nuova, me l'ho rubata subito i cristalli, non c'avevo più messa, ci andavo a piedi, piuttosto la mettevo via le Sicilia, sì, già, ma sono questi delinquenti che la notte, lo sai, o perché sono ubriachi o perché sono drogati, e non fanno altro che fare danno, purtroppo così. Mio fratello ce l'ha il posto dove mette, va dentro, però siccome un giorno è entrato, cioè il giorno precedente era entrato, era toccato, forse è entrato troppo veloce, che ne so, o forse perché la macchina era carica, che aveva del pelle, che aveva, e dunque si era abbassata un po', e ha toccato sotto, e lui ha fatto, beh, stanotte, dice, non la lascio fuori, e così domani rimedio questo problema di questo ferro che c'è lì all'ingresso del cancello scorrevole. E invece tutta la notte l'hanno fregato. Bisogna entrare di lato, è così, basta che tu entri di lato, non tutti. Allora non ci ho pensato, sì, vabbè. Succede anche a me a volte, proprio da dove stai dicendo tu, è entrato nel cancello, senti sparato, tocchi sotto, invece se vai piano piano è più di lato, non tutti. Perché sono cerriato e secondo cosa tocca la mano. Sì, infatti lui voleva fare un aumento del terreno, no? All'interno suo, in modo che quando vai dentro con le prime ruote, con le ruote davanti, la macchina non rimane sempre più bassa, proprio a livello di ferro. E aveva pensato di fare quello, non è che poteva togliere la guida del cancello elettrico, questo no, però poteva modificare il pavimento, potevo modificare. Non abbiamo lasciato il tempo di farlo che abbiamo bruciato la macchina. Non lo sopporta, ancora oggi non lo sopporta, a distanza già di un mese e qualche giorno, dai. Però credo bene che non lo sopporta, è più supporto elettrico. È una cosa indegna, gente vigliare a fare queste cose, per carità. Uno fa sacrifici per comprarsi le cose e poi le distruggono così. Adesso qui hanno trovato questo metodo nuovo, ci mettono la campanella nelle ruote, accendono la campanella, mettono un po' di benzina e facciano tutto. Sì, sì, sì, fanno questo sistema, è una cosa incredibile. E vabbè, e voi dove fare? Bisogna avere fortuna anche contro questi delinquenti. Non è possibile. Vai Fabri. Sì, sì, vi ascolto, rimango un attimino in ascolto che termino qua di fare questo lavoretto, così lo termino. Se coincidete ci salutiamo, comunque sono in ascolto qua. Riprendi già. Lasciamo fuori se tu non rispetti, io mi ricordo che c'era un periodo, sono passati, abbiamo andato a piedi una volta, a casa c'erano tutte le macchine con vetro anteriore, posteriore, tutti spaccati, tutta la fila delle macchine, non una, tutta la fila, li lanciavano quei ciottoli di plattamona, quelli rotondi, quelli che sono ammazzati, quei ciottoli rotondi della macchina, e spaccavano i pizzi. Poi li hanno beccati, quando li hanno beccati, li hanno fermati, li hanno fatto il cofano, hanno fatto i sassi, li hanno detto che li servivano perché dovevano andare in campeggio e dovevano praticamente fermare la tenda con i sassi, no? L'hanno preso per fermare la tenda. Però per sfortuna loro li ha visto un poliziotto che ci ha facciato la finestra spaccando il vetro, si ha chiamato la patrulla. Ci sono appunto, come stavo dicendo poc'anzi, questi delinquenti che la notte non sanno cosa fare e si divertono, fra virgolette, con questo atteggiamento così nei confronti della gente, ma non è possibile. Ma lo fanno un po' dappertutto, vediamo, io leggo tutti i giorni il giornale, leggo la Nuova Sardegna, eccetera, e ne incendiano da tutte le parti, ne incendiano a Sassari, in tutte le strade di Sassari ne hanno incendiato, a Sant'Orsola, a Lipunti, a Platamona, a Ottava, cose che hanno incendiato, hanno incendiato anche un camper, hanno incendiato, cose del nostro mondo, guarda, io a queste ragazze trovate le avrei tagliato le mani, le avrei tagliato, penso un po'. Uno l'hanno trovato col DNA, un incendiario che incendiava le macchine da poco, dimmi tu, i carabinieri con il DNA l'hanno incastrato. Sì, lo so, sì, l'ho letto anche quello sul giornale, ho letto, Natalì, ciao, buonasera, avanti Natalì. Ci mettono molti capri, lo usano perché me lo largo, ci mettono i capri magari che non usano d'inverno e li usano d'estate e li parcheggiano lì, no? Probabilmente qualcuno è indispettito perché non trova parcheggio, lo parcheggia e non so tutto. Sì, già ne ho so. Già lo so, quel parcheggio per camper hanno incendiato qua, provando a tagliargli le mani veramente come ho detto. Buonasera. Soldi, nei camper ci sono soldi, non sono quelli. Addirittura Gianni, un po' di tempo fa hanno incendiato una barca a Porto Torres, ti puoi immaginare, per dirti no, quanta delinquenza c'è dappertutto, è una cosa impressionante veramente. Oggi c'è davvero paura per questi disgraziati fannulloni, perché gente che intanto non ha mai lavorato, vive così da esperienti, eccetera. Per cui, se ti puoi immaginare, devi, ripeto, come ho detto poc'anzi, devi solo avere fortuna che questa gente non ti prendano di mira, o perlomeno che non incocino nella tua macchina, o nella mia, o nella quella di Natalino, eccetera, eccetera. Perché poi tu dici la mettiamo in mano, però magari vai a fare una commissione che anche magari vuole di buca, ma conti, ecco. Sì, ma ormai lo sappiamo, la delinquenza non conosce i confini, si spostano continuamente, si spostano. Tempo fa lì dalle parti alte della città, zona via Matteuti, in quella zona lì, avevano rubato le ruote, ci trovavano le macchine per terra, senza ruote. Ma dico io, tutto questo tempo hanno questi delinquenti che vanno in giro così a fare del male alla gente. Si mettono un cartone e sbollano il bulloni, però ci vuole collare quattro bulloni. Secondo, se è un Alfa Romeo sono cinque, quattro sono quelli Fiat e altre macchine, ma l'Alfa Romeo ne ha cinque, questo passato sarà un blocchetto, cantone che fosse, che adesso l'hanno messo così, sì, sui blu, e sono arrivati poi alle domani mattina, ti ho trovato la macchina senza quattro ruote, tutte e quattro le ho portate via, poi dopo un paio di giorni un'altra macchina ancora, anche quella senza le ruote, cosa è l'altro mondo, guarda, ripeto, bisognerebbe questi tagliargli le mani, anzi forse le mani è poco, bisognerebbe tagliare le mani e le gambe, così almeno non si muovono dalla loro casa. Vai Natali. La mia, la macchina, me l'hanno rovinata, completamente rovinata, perché non c'aveva un graffio la macchina mia, da quando l'ho portata da campagna a qua, me l'hanno rovinata a beffa, c'è anche delle martellate sulla cappotta, dimmi tu che distretti non sono, mi hanno rubato i tubi di cristallo, una volta stava facendo neve, ho dovuto chiamare un amico, così sono andato a comprare i tubi di cristalli, se no non potevo muovere la macchina. Un'altra volta mi hanno fatto sorte le aste dei tubi di cristalli, guarda, mi era arrivata a beffa, va un colpo da reti, mi rugoffano, e quella non è macchina, sono martellate, perché sono nella parte alta della macchina. Vuoi qualche cazzo? No, non è roba di Gani, io no. In alto la cappotta già sta rugando. No, in alto la cappotta no, sta dietro. Sì, vabbè, sono vantaggi, cosa vuoi fare? Ci sono vantaggi. Ma tu guardi, come fanno in Africa, mi ha detto questo amico mio che l'ho fatto in Africa, che una volta in piazza c'era questa, ha visto questo palco, e hanno fatto salire questo micolore praticamente legato nelle mani, e c'era tutto il pubblico guardato, e poi cosa sta succedendo? Si è fermato e poi già, ma non si è fermato, hanno preso la cimitarra, che hanno tagliato le mani davanti a tutti e tutti che acclamavano, no? Perché l'hanno beccato, rubato la gioielleria. Perché lì c'è la sharia, in certi paesi c'è la sharia, e la religione praticamente, e anche la legge, e quindi tu cosa hai fatto? Buratua, e allora di medaglia nelle mani, a chi c'è la legge del taglione, capito? Infatti in questi paesi ce n'è poca delinquenza, a chi bischieggia ne dà la canzone. Tutti quanti che acclamava, questo che gridava, grida sopra umano. Io lo credo, sicura che mi serve la mia amica di rimane, non lo so più. E non c'è bisogno che si incendiano le macchine e capace di rispetti. La madre si cosa, care la mano, tagliata. Sì, ma è così che bisogna fare, allora, così almeno non ci proviamo più, pomeriggio non si possono più provare. Sono dei bastardi, sono delinquenti, ragazzi, non so io. Ma cosa vuoi fare? Già, mi assento un attimino, che vado nella stanza piccola. Sì, vai. Io adesso mi cerco la mamma che devo uscire. Pone di dipingere, come sto facendo di radio già, proprio. Io ho aggiustato le medie più 4, però a metà, va. Sì, no, anche non è normale, ma presente, già buona. Parla appena, eh. Aspettami, guarda, così lo sto aumentando, guarda se aumenta così. No, ora così, Natale, che è perfetto. Così è perfetto. Bravo. Anda bene Meda. Chiara, chiara. A chi fa un freddo della Madonna, e praticamente me l'ho vista brutta con questa influenza che ha passato. Il cane è già uscito, che l'ha portato mia moglie. Cazzo, ieri mi è venuto questo dolore al petto, mamma mia. E non sono andato subito a farmi vedere. E da chi mi faccio vedere? Oh. Mi è passato. Sì, ma era posso, evidentemente era il freddo, era. Mi è durato un paio di secondi, ma poi già mi è passato. Sì, ma com'è? Sì, è già tanto che ci è sentito male stasera. Ah, senti, lo avevo tutto pulito la casa, tutta la profumata, ma a un certo punto ho sentito questo odore di cacca. Mamma mia, è così, poi c'è la fogna che magari sta salendo l'odore col vento. E sono andato in bagno e sentivo sì l'odore, però non era così potente come l'ho sentito in cucina. Controllo tutto che se era tutto cagato la diarrea, uia. Ho detto, per me se non ce l'ha fatta curare, ce l'ha fatta addosso. L'ho portato giù e ha curato subito la pastiglia. La pastiglia. Normix, si ricorda che non ha fatto Normix. E scandisci che... E se non me lo dici un altro momento, già te lo dico io. Però il mio già è tranquillo il cane. Era solo un po' raffreddato stasera, perché stamattina l'ho fatto uscire io, capito? C'è tutto quanto infuso. Se l'ha già asciuttato subito quando dopo... quando sono rientrato. Però era tutta la sera tranquillo, come è venuta mia moglie a portarlo stava starnutendo. E anche te c'è la vestigione così. E ha fatto anche sangue, capito? E dopo questa pastiglia adesso già si è calmato. Adesso stasera non so cosa l'abbia mangiato, non lo sai. Mi pare che non è un si mangia le crocchette, lo mangi. Esatto. Quando così già rompe, già è un rompimento di scatole, poverino. E vuol dire che non ha resistito e se l'ha fatta addosso perché era diarrea, capito? Sì, già mangia carne tutti i giorni, mangia a sera. Anzi, non può dire niente. Ma noi che gli su, che le prendi mari, gli mangia troppa carri già. Ma una parte, una volta c'era la carne, ma ne non prende. È successo oggi e basta. C'è una cosa fatto sempre. Forse era indisposto, cosa dice? Ma povero cane. No, gli ho dato l'uomo di lascia dal subito, ho dato sempre le sue percorse. Sì, vabbè, capita anche a lui, no? Sì, allo sogno. Ciao fra, buonasera. Aumenta due, è a manetta, va. Ciao, invece tu c'è troppo forte la razza. Tu c'hai troppo forte. Abbassa la me. Che sia un buon uomo. Prima era troppo forte, era anche, c'era troppi acuti, era troppo penetrante, non andava bene. Per il più quanto mi ha modificato questo frano. Sono rientrato. Già va bene, già va bene. Già è tutto qui. Ma io qua ho fatto una pelle che vedo preparato. Prepara, prepara. Un buon bo. Dimmi, guarda. A sette. È così, guarda un po', ma io ce l'ho lontano, va bene. Sono rientrato già. E Gianni si è spostato che sta preparando della roba. Sì. Ah ok, ciao Franco. Benissimo, benissimo Franco, non ci sono problemi. Sì, funziona alla grande anche, non ci sono problemi. Va bene, bene, poi bene il grande, è anche di discreto il segnale, per cui va bene così. Trattandosi di un dipolo, anche il segnale va più che bene. È in orizzontale anziché in verticale, per cui devi pensare solo a quello, perché io vabbè, ho fatto anch'io, però ho messo l'antenna in verticale, cioè la camera pesca là, in verticale, 7 metri lunga, perché anch'io sto andando con un dipolo, sempre quello, ma autocostruito, ma in verticale, perché ho utilizzato una camera pesca, e va benissimo così. Sì, va benissimo, appunto è quello che stavo dicendo, abbiamo una polarità differente l'uno con l'altro, per cui va più che bene, mi sta segnando Santiago 8 abbondante, quasi 9, mi sta segnando il segnale e va più che bene. Considera anche che io ce l'ho basso, anche se in verticale, però in basso, nel mio terrazzo c'è un metro e venti massimo di tubo, è attaccato lì. Da lì tutta la canna da pesca, 7 metri all'incirca. Saluti a tutti, questo è per me.